con la faccia strana. Che confusione, è proprio vero, siamo nati per soffrire. Con la faccia da scimmia, sei bastonato e troppe volte pensi che non hai più voglia. Ma vai, vai, vai, prova a dire la sola ragione che ti fa stare. Insegno a planare, la strada è deserta e siamo soli in gara. Vai amico, veloce e lontano, l'urlo del motore come le parole di un uragano, e il mondo si spacca. Vai amico! Ti fa stare qui così.